A bordo campo di Dario Ricci. Manna bosha ki tu ro ya moha to naz mikone ki va bala ye shekaste va to parvaz mikone. La canzone è Se io non ci fossi, il gruppo è Cameron and Human e loro sono iraniani. Beh, insomma, pochi magari sanno che c'è anche questa musica pop in Iran, proprio perché le cose vanno conosciute prima di essere giudicate. E pronto a conoscere l'Iran, il mondo del suo sport, della sua politica e della sua pallavolo, è un personaggio assolutamente centrale nella storia dello sport italiano. Julio Velasco, il leggendario tecnico della nazionale, campione di tutto tranne ai noi delle Olimpiadi negli anni 90 nella pallavolo mondiale, è pronto a questa nuova avventura, diventerà infatti commissario tecnico dell'Iran. E allora proprio Julio Velasco è oggi nostro ospite, benvenuto coach, ci spieghi un po' come è venuta in mente l'idea di accettare questo incarico così particolare. In realtà è una domanda che mi sono fatto anch'io, nel senso che mi è arrivata questa proposta prima di andare a visitare Teheran per vedere com'era la realtà da parte della Federazione Iraniana, che aveva già ingaggiato anni fa un allenatore serbo che è stato campione olimpico con la Serbia, si chiama Gajic, esperienza che stava importante, però che poi non andava avanti. Questo allenatore poi andare in Russia, allenare in club, eccetera. E adesso ci hanno riprovato, ingaggiare un allenatore di esperienza internazionale per cercare di portare la loro nazionale a un livello più alto, perché loro hanno nazionali juniors che hanno fatto risultati internazionali in diverse manifestazioni e manca questo salto di qualità a livello maggiore, signori. Che volley andrà a trovare in Iran? Abbiamo visto formazione nazionale di buon livello che ha fatto soffrire l'Italia anche agli ultimi mondiali, ma del movimento che cosa sai e che idea si è fatto per quello che già ha potuto vedere? Ma loro hanno un movimento grande, nel senso che hanno molti giocatori, c'è una serie A1 di 16 squadre, professionista, anche con giocatori che guadagnano alcuni bene, e una vasta attività giovanile, per cui vado a trovare una realtà interessante dal punto di vista professionale, pallavolistico, un'esperienza interessante, anche perché mi incuriosisce molto conoscere i giovani di questa realtà culturale diversa, completamente diversa all'Occidente. Ho conosciuto sì quelli della Repubblica Ceca, che come paese post comunista è stato molto interessante, però per il resto Spagna, Italia, Argentina sono tre cuscini, non ci sono grandi differenze. Beh, qua in Italia siamo un po' preoccupati perché se comincia in Iran quello che lei ha fatto con la nostra pallavolo, ci ritroviamo un avversario di prim'ordine sul campo. Ma no, il processo della pallavolo italiana è stato un processo ad ampia scala dove la nazionale è stata una parte, ma un processo di crescita progressivo, generale di tutto il movimento. Qua è un processo diverso, comunque credo che si possa far bene. Ecco. Beh, tra l'altro parlava dei giovani iraniani e sappiamo nell'ultimo anno, negli ultimi mesi, protagonisti anche della vita politica del paese in modo tumultuoso con le proteste di piazza, anche soppresse nel sangue nei confronti del regime. Ecco, che idea si è fatto da fuori di questa situazione in cui ora invece si troverà comunque a essere parte? Ma io l'idea non mi sono fatto un'idea molto precisa da così lontano, al di là di quella che si può fare chiunque leggendo i giornali, però è chiaro che io come allenatore della nazionale non posso entrare in questioni politiche del paese che mi ospita, perché sarebbe scorretto e fuori luogo, come credo che sarebbe per un allenatore straniero che viene a allenare la nazionale italiana, che le chiedano che pensa delle vicende politiche italiane, giudiziarie o meno, del Presidente del Consiglio, cose del genere. Credo che, come tutti gli ospiti, dovrebbero astenersi di entrare direttamente sulla questione. Quello che io ho chiaro è che io vado a lavorare per una federazione che appartiene alla Federazione Internazionale di Pallavolo, non vado a lavorare per un governo, né quello dell'Iran, né quello della Repubblica Ceca, né il governo spagnolo di Zapatero. Uno va a lavorare per una federazione che rappresenta l'attività sportiva di tutto il paese, sia di quelli che sono opposizione sia di quelli che sono governo. Facciamo però fatica a immaginare un Velasco confinato solamente al campo e alla palestra. Ma questo sicuramente è una cosa, delle cose che mi stimolano di più, che però è quello di conoscere una realtà diversa, non di intervenire o di incidere in nessun modo. Io in Italia vivo da 30 anni e ho la cittadinanza italiana da 21, per cui posso a tutti i titoli intervenire anche in questioni inerenti al proprio paese, come lo posso fare in Argentina, in un paese che mi ospita, no. Però l'esperienza poi la farò direttamente. Sono già stato lì 3 giorni, ho visto la parte della struttura organizzativa che è molto buona, la federazione mi ha sembrato una federazione molto seria, molto ben organizzata. Ripeto, oltre alla parte strettamente pallavolistica, quello che a me mi affascina non è quello che dirò io, ma quello che riuscirò a capire, perché si tratta di una cultura millenaria, tanto per cominciare, perché si tratta della Persia, dell'antica Persia, per cui sono una delle grandi culture dell'antichità. Mi interessa moltissimo perché è una delle realtà più importanti del mondo contemporaneo in cui viviamo, questo fenomeno dell'islamismo come una cosa che va oltre la religione, per cui sono molto molto curioso. Quali libri sta sfogliando per prepararsi a questa avventura? No, ho letto già quello che ha scritto il Kahn, che hanno fatto quei 3 volumi del Rabino Toaf, che parla dell'ebraismo, il Cardinale Martini, che parla del cattolicesimo, e il Principe di Giordania, che parla dell'islamismo, per cominciare a capire certe cose. Soprattutto mi incuriosisce parlare con la gente, vedere certi fenomeni. Per esempio, io ho già visto uno che mi ha sorpreso molto, perché io mi aspettavo così dei precetti islamici molto, molto rigidi. Invece, quando ho chiesto come si fa nel Ramadan con i giocatori, mi hanno detto che nell'Iran, in diversi sportivi, nel Ramadan lo fanno in un altro modo, che loro mangiano e bevono normalmente, perché il Corano permette di fare il Ramadan non con il digiuno, ma fare altre opere di solidarietà, eccetera. Per cui loro non lo fanno il Ramadan dal punto di vista del digiuno, cosa che mi ha sorpreso moltissimo, perché avevo avuto un giocatore egiziano, no, un paese molto laico come l'Egitto, che invece quando giocava con me a Montichiari il Ramadan lo ha rispettato, e dovevamo portarle da mangiare una volta che c'era il tramonto, insomma. So che prima di questa offerta si dice nell'ambiente che c'era stato anche un nuovo contatto con quello che era stato il mondo della nazionale azzurra di pallavolo. È vero? E se sì, perché invece ha scelto quest'altra meta? No, ossia, mi è stato chiesto una disponibilità in modo assolutamente informale da parte di una persona della federazione, ma in modo assolutamente informale, una persona che non aveva titolo, diciamo, per farmi una proposta, e per fare non l'allenatore della nazionale, bensì il direttore tecnico della federazione, di tutta l'attività giovanile, eccetera, per rilanciare un po' il discorso tecnico. Io gli ho dato la mia disponibilità, che ero disponibile. Ho messo come unica condizione che lo volesse il presidente della federazione, che è il capo, insomma, se lo voleva lui, se mi faceva una proposta a lui, io ero disponibile. Questa proposta non è mai arrivata, per cui non c'è stato niente, è stata solo una richiesta di disponibilità assolutamente informale. Siccome non è arrivata nessuna proposta, mi sono orientato a quelle che erano proposte concrete. Le chiedo ancora 2 cose. La prima è questa: le manca un po' l'ambiente del calcio dopo quelle che sono state le sue esperienze negli anni passati con Lazio e Inter? Che mi manca, io tra l'altro adesso mi ha preso proprio che sto ritornando nel Coverciano, dove sono andato a fare un intervento agli studenti per fare il direttore sportivo a Coverciano, no? Che diverse volte sono andato, adesso il 28 ci vado un'altra volta. Diciamo che è stata un'esperienza molto interessante, che in un futuro ripeterei volentieri. È chiaro che se devono dare le condizioni, se ci sarà la valuterò con grande attenzione, ecco. Per adesso la reclamano a Teheran, direi giustamente. Le chiedo un'ultima cosa, che è anche una mia personale curiosità: ho sempre ammirato della sua parabola sportiva il fatto di non essere rimasto prigioniero dell'ossessione olimpica, no? Che se per un atleta è più facile, perché inevitabilmente la carriera anagraficamente lo impone per un allenatore cui solo quell'alloro manca dal palmarès, è sicuramente una scelta ancora più coraggiosa. Come ci si riesce a non rimanere prigionieri di quei cinque cerchi? Ma io credo che è un po' questo, sì, una filosofia di vita. Uno può vedere la vita pensando sempre a quello che gli manca, o può vedere la vita pensando di più a quello che ha. E credo che qua c'è molte volte il segreto di vivere una vita abbastanza buona oppure no. Se uno è ricco però pensa a tutti quelli che sono più ricchi di lui, non sta mai bene. Uno che non è ricco lo guarda e dice: ma come fa questo a non stare bene se è ricco? Però ci sono tanti più ricchi. Così è con tutto, con qualunque cosa. Per cui io mi godo moltissimo vittorie che non avrei mai pensato di ottenere quando ero un giovane allenatore. È stato più del sogno più grande che abbia mai avuto. Già vincere un mondiale sarebbe stata una cosa, ne ho vinto due, voglio dire, se uno pensa poi proprio a quello che non ha vinto, che tra l'altro non ha vinto l'oro, ma ha vinto una medaglia d'argento che rimane la vittoria più grande della pallavolo italiana in un'Olimpiade, per cui io la penso così, ma questo lo faccio anche con altre cose della vita, se no è difficile. Nel salutarla e nel rinnovarle l'in bocca al lupo, le chiedo: compiamo come Italia e come italiani 150 anni. Ulio Velasco, che comunque una bella fetta della storia sportiva di questo paese l'ha vissuta da protagonista e l'ha scritta, che augurio si sente di fare a questa Italia? L'augurio innanzitutto è di pace, perché questo credo che sia per un paese il dono più importante. Dopo della pace augurerei la giustizia sociale, che ahimè manca non particolarmente in Italia, manca molto di più fuori dell'Italia, però anche in Italia, e unità, perché io credo che molti italiani anche lì a volte alcuni mettono l'accento in quelli che le divide, ma quando si va all'estero, io sono stato tante volte all'estero e l'accento diventa quello che ci unisce, e io credo che ci siano tante cose che ci uniscono. Questo non vuol dire che non veda le grandissime differenze tra il nord e il sud, i grandi problemi, ingiustizie in un senso o nell'altro, perché le ingiustizie non sono solo verso il sud, ci sono anche verso il nord, però credo che tutte queste differenze vanno affrontate e risolte sempre sotto il segno dell'unità, ma in un momento come questo della storia del mondo è fondamentale per un paese. A bordo campo. Che lo sport sia abituale ospite di A Bordo Campo, questo direi che non è una notizia, ma che la TV sia invece ospitata qui nella nostra rubrica, questo sì, davvero suscita qualche curiosità. Il tutto ha comunque nello sport il suo grande contenitore. Beh, allora sciogliamo questo piccolo rebus, parliamo oggi di sport in TV e ne parliamo chiaramente alla radio. Allora, nostri ospiti, due giornalisti che stanno un po' scrivendo e hanno scritto la storia dello sport televisivo, Pino Frisoli. Buongiorno. E Massimo De Luca, che di questa storia è veramente una pagina importante, autorevole e nota, ex direttore di Rai Sport e volto noto di Rai e Mediaset, oltre che voce nota della radio. Buon ascolto a tutti. Sport in TV è proprio il titolo del volume curato da Pino Frisoli e da Massimo De Luca, in cui viene ripercorsa di fatto la storia dello sport in TV a partire da una data, 5 febbraio 1950, data da segnare col circoletto rosso, perché quella è la data della prima partita trasmessa in TV in Italia, vero Pino? Un leggendario Juventus-Milan. Sì, leggendario anche perché finì 7-1 per il Milan e quindi anche nelle proporzioni del risultato, ma poi appunto è stata la prima partita trasmessa in diretta in televisione, ovviamente solo nella zona di Torino e dintorni, perché allora più di tanto non si poteva, però tanto è bastato per capire quanto fosse importante il calcio, l'occhio della telecamera. Carlo Baccarelli, che è stato il telecronista, ha infatti raccontato di come in una giornata nebbiosa come era quella, attraverso il monitor poteva anche capire alcune situazioni di gioco che a vista non riusciva a interpretare. Tra l'altro, noi parliamo in questo momento di calcio ipertecnologico, calendario spezzatino alla luce di quelle che sono le esigenze televisive. Ebbene, tutto questo ha un'origine remota nella storia dello sport in TV, vero Pino? Eh sì, anche questo è un po' stata una sorpresa anche per me quando l'ho scoperto, perché addirittura la stagione 1955-56 ha visto gli anticipi al sabato, ovviamente trasmessi dall'unico canale allora della Rai. Tra l'altro anticipi che si differenziavano tra Serie A, Serie B, addirittura Serie C, cioè un Colleferro Vigevano addirittura a novembre. Il primo anticipo era stata una partita di Serie B, e poi un Simmental Monza Verona, e poi la settimana successiva Atalanta Triestina anticipata al sabato, con cospicuo indennizzo ovviamente per il presidente dell'Atalanta per rifarsi del mancato pubblico, e con la telecronaca di Nicolò Caroso. Questo per tutta la stagione 55-56. Poi ci fu un blocco, che in pratica, fino a che non è arrivata la PTV, gli anticipi televisivi erano solo delle occasioni sporadiche dovute a eventi particolari, tipo partite di coppe si anticipava, ma non regolari. Insomma, quindi per la serie non si inventa nulla. Direttore Massimo De Luca, tu che sei stato protagonista di tante di queste storie, tante di queste vicende, ci sono anche degli scoop che questo libro regala. Citavamo Nicolò Carosio, no? Avete sciolto un enigma proprio attraverso queste pagine. Sì, c'è questa leggenda metropolitana, ormai possiamo definirla così, che Nicolò Carosio abbia insultato in maniera razzistica il guardaline etiope di Italia, Israele e Messico 70. È una leggenda metropolitana che va avanti da decenni, da 41 anni appunto, e che noi abbiamo smentito andando a riascoltare secondo per secondo la telecronaca di Carosio, che al massimo è un po' stizzito nei confronti del guardaline, che annulla un gol regolare a Riva, e sarebbe stato il primo gol di Riva in quel mondiale, e che al massimo definisce etiope. Ecco, questo è il massimo che fa. Ora, perché sia nata questa leggenda? È vero che dopo quella partita Carosio non fece più l'Italia, e quindi si perse Germania-Italia 4-3 e la finale mondiale con il Brasile, che furono raccontate da Nando Martellini. Per lui, che aveva raccontato i mondiali del 34 e del 38, dovette essere veramente un bel colpo, era verso la fine della carriera. Perché probabilmente si è ingenerato un equivoco, qualcosa di improprio, e stiamo ancora approfondendo, e Pino sta studiando. Era stato detto alla radio, e questo lo testimonia una lettera al Messaggero di pochi giorni dopo, di un ingegnere etiope residente a Roma, che si lamentava del fatto che alla radio nel dopo partita fosse stato detto: il Negus si è vendicato. Adesso stiamo cercando di scoprire chi ha detto questa frase, e non escludiamo che riveli una sorpresa abbastanza clamorosa. Tra l'altro siamo pronti a riospitarvi, perché ecco, quello che c'è nell'aria... L'attribuzione per ora non è certa, però stiamo studiando. Sì, ecco. Sì. La realtà era che l'etiope, tra l'altro, in questione, si era allenato in altura con la nazionale israeliana prima dei mondiali, sugli altipiani etiopici appunto. Ed era stato scandaloso arbitro della precedente partita tra Israele e Svezia, scandaloso perché aveva smaccatamente favorito Israele, facendo infuriare i giornalisti svedesi. Diciamo che non era del tutto pulito, si chiamava Tarreken, quelle guardaline, anche arbitro. Ecco, insomma, come vedete, non è solo pura accademia, la curiosità che nasce dall'analisi della storia televisiva dello sport. Tra l'altro, direttore, vale la pena sottolineare anche, oggi è andato acquisito, ma il ruolo importante che ha avuto Mediaset in questo scenario, no? Ricordo da ragazzo che la trasmissione del Mundialito in TV erano i primissimi anni 80, e io bambino mi vedevo Cruyff, Zico, certo, qui a San Siro, e anche un certo Platini, no? Che muoveva già i primi passi, non so se con la maglia della Juve, raccontaci sì. Meglio. È fuori discussione che Mediaset, ovvero la nascita della concorrenza, all'epoca non si chiamava nemmeno Mediaset, abbia stimolato poi anche la Rai, perché intanto ha decretato la fine del monopolio, e quando c'è concorrenza i prodotti si migliorano. Il Mundialito ne è un caso, fu un modo per Mediaset di farsi conoscere, di affermarsi a livello nazionale. Ma successivamente, ed io ero a Mediaset da pochi mesi come responsabile dello sport, l'acquisizione del Giro d'Italia, che sembrò uno strappo storico, e fu uno strappo storico perché il Giro era una delle immagini della Rai. Però va detto che Mediaset fece molto bene quei Giri d'Italia che seguì, e quando la Rai l'ha ripreso è stata in qualche modo costretta a farlo altrettanto bene, e ha saputo farlo, per carità, ma c'era voluto lo stimolo della concorrenza. Sì, infatti anche oggi vediamo sulla TV di Stato che quando per esempio trasmette la Coppa Italia comincia a intrufolarsi negli spogliatoi, perché anche la PTV lo fa, insomma. Adesso negli spogliatoi c'è un traffico, un via vai, speriamo che riescano a entrarci ancora i giocatori, che in fondo è il posto deputato. Pino Frisoli, oggi l'altro grande Moloch del calcio in PTV è diretta gol, no? Il fatto che ci vediamo tutti i gol lì nel momento in poltrona, il campo da Parma, il gol da Torino, arriva da Roma, tutto questo già si faceva nel 76. Sì, anche lì anche scoperta clamorosa anche quello, il 24 febbraio 76 c'era il torneo di Viareggio, ultima giornata della prima fase, la Rai decise di fare questo esperimento con quattro partite, schierando poi tutti i telecronisti migliori dell'epoca. Esperimento che da quelle poche righe che si sono poi trovate sui giornali dell'epoca pare sia anche ben riuscito, era fatto in funzione soprattutto dei mondiali d'Argentina, evidentemente quella era l'intenzione, poi non se ne fece nulla. Comunque sia, venne fatto questo esperimento, piacque, poi come si è detto non ebbe seguito, anche perché naturalmente le società di calcio non avrebbero mai permesso all'epoca una trasmissione televisiva così. Non dimentichiamo che se oggi le società di calcio praticamente dipendono dalla televisione, all'epoca era l'esatto contrario. Ci sono casi poi soprattutto, Pino, non dimentichiamo che un discorso è se una partita viene data in chiaro, non a pagamento. Certo, altro è se lo dà Sky o Mediaset Digitale o chi sia, che prevede un abbonamento e quindi ha un numero limitato di abbonati. Una partita trasmessa in chiaro è, insomma, azzera quasi la possibilità che ci sia un incasso sostanzioso allo stadio, no? Altro ricordo di bambino, io da romano, ogni volta che la nazionale giocava a Roma, altro che vederla in televisione, dovevi aspettare la replica alle 23, perché se la avessero data in diretta nella tua zona, tu a quel punto non saresti andato allo stadio, e allora addio incasso. Ricordo un'Italia resto del mondo che volevo vederla come un disperato, 3-0 per il resto del mondo, c'erano i più grandi campioni, Keegan eccetera eccetera, io quei gol non l'ho mai visti, anzi se qualcuno me li manda o me li segnala su YouTube colmiamo questa lacuna. Pino Frisoli, verso dove stiamo andando, mi verrebbe da chiedere, perché siamo partiti in questa rapidissima carrellata dalla scoperta della televisione e oggi siamo nel momento del massimo dominio. Il prossimo passo, il futuro, questo libro, il capitolo che ancora dovete scrivere. Oramai le televisioni hanno potere, direi, assoluto, perché il prossimo passo forse sarebbe, non so, il 3D, queste nuove tecnologie che magari si imporranno ancora di più. Però oramai indietro non si torna, tutti gli eventi sono i grandi eventi sportivi sono tutti pensati in funzione della TV, gli orari e tutto. Il pubblico si è anche abituato oramai a vedere tutto, quindi non c'è più, non si può più tornare come negli anni 70, 60 ad esempio, quando c'era la sintesi del pomeriggio e non veniva dato il risultato. Oggi si sa tutto in tempo reale, quindi qualunque censura anche di 10 minuti fa un po' ridere, quindi forse ecco le reti tematiche avranno un ruolo più forte. La TV pubblica comunque, cioè la TV in chiaro meglio, pubblica o privata, dovrà comunque coprire i grandi eventi sportivi. E naturalmente chi vuole approfondire, chi è più super appassionato, probabilmente dovrà per forza di cose fare abbonamenti, come è già accaduto con i mondiali. Del resto, se prima si vedeva tutto, adesso l'intero mondiale è a pagamento. Grazie allora a Pino Frisoli e a Massimo De Luca per essere stati i nostri ospiti a Bordo Campo. Grazie a voi. Grazie a voi. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Paolo Corleoni in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it, scriverci alla mail abordocampo@radio24.it e dialogare con noi tramite il blog di A Bordo Campo, sempre sul nostro sito internet. L'appuntamento è per domenica prossima, sempre alle 14.30, e in replica, come d'abitudine, il sabato alle 6.30. Buona giornata da Dario Ricci. We'll be right back.